6A. Ascolta e controlla. 1. Quando mettete in ordine? Domani mettiamo tutto in ordine. 2. Che cosa legge ora? Legge un romanzo. 3. Che cosa scrivono? Scrivono un messaggio. 4. Chi apre la porta? Io apro la porta. 5. A che ora partite? Partiamo alle 12. 6. Che cosa offrono da bere? Offrono birra e Coca-Cola.